Garibaldi fu ferito ad una gamba. Gazzettino del Risorgimento, la storia dell'Unità d'Italia. Per Garibaldi, viva! Da settembre a dicembre del 1825. Il giubileo è un successo inaspettato, soddisfazione nello Stato Pontificio. Regno Unito 60 i fallimenti di banche dall'inizio dell'anno. L'esercito tenta una rivolta liberale in Russia, subito sedata. Addio cavalli, il treno va a vapore, l'innovazione in Inghilterra. Una buona giornata da Simone Spezia e dalla redazione del Gazzettino del Risorgimento. In apertura andiamo nello Stato Pontificio, dove c'è grande soddisfazione per i risultati del Giubileo. Nell'anno santo c'è stato un enorme afflusso di fedeli a Roma. Il clima è stato di effettiva penitenza, come Leone XII ha voluto. Nessuno spettacolo teatrale si è svolto e lui stesso ha guidato lunghe processioni a piedi nudi. Il denaro raccolto con le offerte servirà anche alla ricostruzione della Basilica di San Paolo fuori le mura, andata completamente bruciata 2 anni fa. Ma proprio a Roma la repressione contro i carbonari è stata durissima. Pena capitale per 2 di loro, Angelo Targhini e Leonida Montanari, che sono stati decapitati in novembre. Il Gazzettino del Risorgimento ha ottenuto la registrazione del dialogo tra Montanari e lo storico boia romano, Mastro Titta. Che fecero i sovrani radunati a Vienna? Dissero: giovanotti, dalla Bastiglia oggi non è successo niente. Si ritorna a Luigi XVI. E si rimisero le parrucche. Per cui annullarono tutto, la scienza, le scoperte, le invenzioni, tutto. Meno che una cosa. Che cosa? La ghigliottina. Ah già, è un'invenzione vostra, degli rivoluzionari. È l'unica cosa al mondo oggi che non puzza di vecchio, di decrepito, è la ghigliottina. Voi siete l'uomo più moderno di Roma. A Mastro Di, l'avvenire è vostro. Buonanotte, popolo. Un altro patriota italiano è caduto in Grecia. Si tratta di Giuseppe Rosarol, protagonista delle rivoluzioni liberali nel sud Italia di 3 anni fa. Rosarol è morto a Nafplion, nel Peloponneso, da soldato semplice. Fu lui a tentare nel 21 un'estrema difesa di Messina dalle truppe austriache venute a sedare la rivolta costituzionale. Già si temono gli effetti sull'economia reale della crisi finanziaria che ha colpito la Gran Bretagna. Dall'inizio dell'anno sono 60 i fallimenti bancari, di cui 9 tra istituzioni finanziarie di grosse dimensioni. Come vi abbiamo raccontato nelle precedenti edizioni, la crisi nasce anche da speculazioni sul Sud America. La polizia starebbe indagando sullo scozzese Gregor McGregor, sospettato di una maxi truffa della quale non si conoscono ancora i contorni. Una rivolta è stata tentata ed è fallita in Russia, nella capitale San Pietroburgo. Un gruppo di qualche migliaio di militari di idee liberali si è ammassato nella piazza del Senato della città, ma lo zar Nicola I è venuto a sapere in anticipo cosa stava succedendo e ha fatto circondare i ribelli, che sono stati resi inoffensivi. Per i decabristi, così sono stati chiamati dal nome del mese di dicembre in russo, si preparano pene esemplari. È stata inaugurata nelle scorse settimane la prima ferrovia sulla quale ci si muove con la forza del vapore a trainare il treno tra Stockton e Darlington nel nord-est inglese. Non sono dunque cavalli, ma un motore montato su un vagone che viene chiamato locomotiva. I 600 passeggeri hanno viaggiato a circa 10 km l'ora. È tutto, sul nostro sito potete anche scaricare il nostro foglio quotidiano con immagini e notizie, visitate il nostro blog, la nostra pagina Facebook, lasciateci un commento o fatelo con penna e calamaio elettronici, l'indirizzo è sempre gazzettino@radio24.it. Da Simone Spezia, che ha condotto questa edizione e l'ha curata insieme a Paolo Piacenza, una buona giornata.